aveva fretta perché aveva un appuntamento importante col direttore di una biblioteca. Non conosceva quel quartiere della città, chiese la via a un passante che gli indicò un vicolo lungo e stretto. Il suolo era acciottolato. M vi entrò e quando fu a mezzo cammino vide venirgli incontro un ragazzo tarchiato in canottiera, forse un marinaio. Notò con disagio che non c'erano slarghi né portoni, benché M fosse smilso, al momento dell'incrocio sarebbe stato costretto a un contatto sgradevole. Il marinaio fischiò. M udì un latrato alle sue spalle, il grattare degli unghioli, poi l'ansito dell'animale accaldato. Il cane doveva essersi accovacciato in attesa. Avanzarono entrambi finché si trovarono fronte a fronte. M si addossò al muro per lasciare libero il passaggio, ma l'altro non fece altrettanto. Rimase fermo e posò le mani sui fianchi, ostruendo completamente il cammino. Non aveva un'espressione minacciosa, sembrava che aspettasse tranquillamente, ma M udì il cane ringhiare profondo. Doveva essere un animale di grossa taglia. Fece un passo in avanti, al che l'altro appoggiò le mani alla parete. Vi fu una pausa. Poi il marinaio fece un gesto con le due palme rivolte al suolo, come chi carezzasse una lunga schiena o placasse le acque. M non capì, chiese: «Ma perché non mi lascia passare?» Ma l'altro rispose ripetendo il gesto. Forse era muto o sordo o non capiva l'italiano, ma avrebbe pur dovuto capire, la questione non era così complessa. Senza preavviso il marinaio sfilò gli occhiali di M, li ricacciò in tasca e gli sferrò un pugno allo stomaco, non molto forte, ma M, colto di sorpresa, arretrò di parecchi passi. Non si era mai trovato in una situazione simile, neppure da ragazzo. Cercò di farsi animo e rispose con un diretto, ma si accorse con stupore che il suo braccio era corto. Non riuscì neppure a sfiorare il viso dell'avversario, che lo aveva tenuto a distanza puntandogli le mani sulle spalle. Allora caricò il marinaio a testa bassa. Non era solo una questione di dignità e d'orgoglio, non solo aveva bisogno di passare, ma in quel momento il farsi strada in quel vicolo gli appariva una questione di vita o di morte. Il giovane gli acchiappò la testa fra le mani, lo respinse e ripeté il gesto dei due palmi che M intravide nella nebbia della miopia. A M venne in mente che avrebbe potuto anche lui giocare sulla sorpresa. Non aveva mai praticato alcun genere di lotta, ma qualcosa gli era pure rimasto delle sue letture e gli balenò in mente da un remoto passato una frase letta 30 anni prima in un romanzo del Selvaggio Nord: «Se il tuo avversario è più forte di te, abbassati, gettati contro le sue gambe e spaccagli le ginocchia». Indietreggiò di qualche passo, riprese la rincorsa, si raccolse a palla e rotolò contro le gambe tozze del marinaio. Questi abbassò una mano, una sola, arrestò M senza sforzo, lo afferrò per un braccio e lo rialzò. Aveva un'espressione stupita. Poi rifece il solito gesto. Il cane, frattanto, si era avvicinato e annusava i pantaloni di M con aria minacciosa. M udì un passo secco e rumoroso alle sue spalle. Era una ragazza in abiti vistosi, forse una prostituta. Superò il cane, M e il marinaio, come se non li vedesse, e scomparve in fondo al vicolo. M, che aveva vissuto fino allora una vita normale, cosparsa di gioie, noie, dolori, di successi e di insuccessi, percepì una sensazione che non aveva mai provata prima, quella della sopraffazione, della forza maggiore, dell'impotenza assoluta, senza scampo e senza rimedio, a cui non si può reagire se non con la sottomissione o con la morte. Ma aveva un senso morire per il passaggio in un vicolo? A un tratto il marinaio acchiappò M per le spalle e lo spinse verso il basso. Possedeva veramente una forza straordinaria e M fu costretto a inginocchiarsi sui ciottoli, ma l'altro continuava a premere. A M dolevano le ginocchia in modo intollerabile, tentò di scaricare una parte del peso sui calcagni, per il che dovette abbassarsi ancora un poco e inclinarsi all'indietro. Il marinaio ne approfittò, la sua spinta da verticale si fece obliqua e M si trovò seduto con le braccia puntellate dietro di sé. La posizione era più stabile, ma poiché ora M era assai più basso, la pressione dell'altro sulle sue spalle si era fatta proporzionalmente più intensa. Lentamente, con spunti convulsi e inutili di resistenza, M si trovò appoggiato sui gomiti, poi coricato, ma con le ginocchia ripiegate e alte, almeno quelle. Erano fatte di ossa dure, rigide, difficili da vincere. Il ragazzo emise un sospiro come fa chi deve fare appello a tutta la sua pazienza. Afferrò i calcagni di M uno per volta e gli distese le gambe contro il suolo premendo sulle rotule. Era questo dunque il significato del gesto, pensò M. Il marinaio lo voleva disteso subito, non tollerava resistenze. L'altro cacciò via il cane con un comando secco, si tolse i sandali reggendoli in mano e si accinse a percorrere il corpo di M come si percorre in palestra l'asse d'equilibrio, lentamente, a braccia tese, guardando fisso davanti a sé. Pose un piede sulla tibia destra, poi l'altro sul femore sinistro e via via sul fegato, sul torace sinistro, sulla spalla destra e infine sulla fronte. Si infilò i sandali e se ne andò, seguito dal cane. M si rialzò, si rimise gli occhiali, si rassettò gli abiti, fece un rapido inventario. C'erano vantaggi secondari, quelli che il calpestato ricava dalla sua condizione: compassione, simpatia, maggiore attenzione, minore responsabilità? No, poiché M viveva solo. Non ce n'erano, né ce ne sarebbero stati, o se sì, minimi. Il duello era stato squilibrato, sleale, sporco, e lo aveva sporcato. I modelli, anche i più violenti, sono cavallereschi, la vita non lo è. Si avviò al suo appuntamento sapendo che non sarebbe stato mai più l'uomo di prima. Può stupire che in un lager uno degli stati d'animo più frequenti fosse la curiosità. Eppure eravamo, oltre che spaventati, umiliati e disperati, anche curiosi, affamati di pane e anche di capire. Il mondo intorno a noi appariva capovolto, dunque qualcuno doveva averlo capovolto e perciò essere un capovolto lui stesso, uno, mille, un milione di esseri antiumani creati per torcere quello che era dritto, per sporcare il pulito. Era una semplificazione illecita, ma a quel tempo e in quel luogo non eravamo capaci di idee complesse. Per quanto mi riguarda, questa curiosità che ammetto di conservare e che non è limitata solo ai capi nazisti, i signori del male, è rimasta molto viva negli anni. E questa mia ricerca per un destino strano, addirittura provocatorio, mi ha messo anni fa sulle tracce di uno dell'altra parte. Non certo un grande del male, forse neppure un malvagio a pieno titolo, tuttavia un campione. È un testimone suo malgrado che ha deposto senza volerlo e senza addirittura saperlo. Era un quasi me, un altro me ribaltato, coetanei, non dissimili come studi, forse neppure come carattere. Lui, Mertens, giovane chimico tedesco e cattolico, io, giovane chimico italiano ed ebreo. Potenzialmente due colleghi, di fatto lavoravamo nella stessa fabbrica, ma io dentro il filo spinato e lui fuori. Eravamo 40.000 a lavorare nel quartiere dei Buhnerwerke di Auschwitz e che noi due, lui Oberingenieur e io chimico schiavo, ci fossimo incontrati è improbabile. Comunque non più verificabile. Neppure dopo ci siamo mai visti. Quello che so di lui proviene da lettere di amici comuni. Il mondo si rivela talvolta risibilmente piccolo, tanto da consentire che due chimici di paesi diversi possano trovarsi collegati da una catena di conoscenti attraverso un reticolo di notizie scambiate che è un surrogato scadente dell'incontro diretto, ma che tuttavia è meglio della reciproca ignoranza. Per questa via ho appreso che Mertens aveva letto i miei libri sui lager e anche altri, perché non era un cinico né un insensibile. Tendeva a rifiutare un certo segmento del suo passato, ma era abbastanza evoluto per astenersi dal mentire a se stesso. La prima notizia che ho di Mertens risale alla fine del 1941, epoca di ripensamento per tutti i tedeschi ancora in grado di ragionare e di resistere alla propaganda. I giapponesi dilagano vittoriosi in tutto il sud-est asiatico, i tedeschi assediano Leningrado e sono le porte di Mosca, ma l'era dei blitz è finita. Il collasso della Russia non c'è stato e sono cominciati invece i bombardamenti aerei delle città tedesche. Adesso la guerra è affare di tutti. In tutte le famiglie c'è almeno un uomo al fronte e nessun uomo al fronte è più sicuro dell'incolumità della sua famiglia. Dietro le porte delle case la retorica bellicista non ha più senso. Mertens è chimico in una fabbrica metropolitana di gomma. La direzione dell'azienda gli fa una proposta che è quasi un ordine. Avrà vantaggi di carriera e forse anche politici se accetta di trasferirsi ai Buhnerwerke di Auschwitz. La zona è tranquilla, lontana dal fronte, fuori dal raggio dei bombardieri, il lavoro è lo stesso, lo stipendio è migliore, nessuna difficoltà per l'alloggio, molte case polacche sono vuote. Mertens ne discute con i colleghi, in maggior parte lo sconsigliano, non si baratta il certo per l'incerto e inoltre i Bunaver che sono in una brutta regione, paludosa, malsana. Ma contro il nome di Auschwitz nessuno ha obiezioni, è ancora un nome vuoto che non suscita echi, o una delle tante città polacche che dopo l'occupazione tedesca hanno cambiato nome. Oswiecim è diventata Auschwitz, resta una cittadina polacca come tante altre. Mertens è fidanzato, chiede un permesso e va a vedere. Che cosa abbia visto in questo primo sopralluogo non è noto. L'uomo è tornato, si è sposato, non ha parlato con nessuno ed è ripartito per Auschwitz con la moglie e i mobili per stabilirsi laggiù. Gli amici, quelli appunto che mi hanno scritto questa storia, lo hanno invitato a parlare, ma lui non ha parlato. E neppure ha parlato nel corso della sua seconda ricomparsa in patria, nell'estate del 1943, in ferie, perché nella Germania nazista in guerra, in agosto, la gente andava in ferie. Adesso lo scenario è cambiato. Il fascismo italiano, battuto su tutti i fronti, si è sfasciato e gli alleati risalgono la penisola. La battaglia aerea contro gli inglesi è perduta e nessun angolo della Germania è ormai al riparo dalle spietate ritorsioni alleate. I russi non solo non sono crollati, ma a Stalingrado hanno inflitto ai tedeschi e a Hitler stesso, che ha diretto le operazioni con l'ostinazione dei folli, la più bruciante delle sconfitte. I coniugi Mertens sono oggetto di una cautissima curiosità, perché a questo punto Auschwitz non è più un nome vuoto. Qualche voce ha circolato, imprecisa ma sinistra. È da porre accanto a Dachau e a Buchenwald. Pare anzi che sia peggiore. È uno di quei luoghi su cui è rischioso fare domande. Ma si è fra amici intimi di vecchia data. Ma Mertens nei salotti si apparta, a mezzanotte quasi sempre ubriaco, ma il padrone di casa non lo ha perso di vista, lo trascina al tavolo e gli chiede chiaro e tondo: adesso tu ci racconti che cosa diavolo succede dalle tue parti, perché devi ubriacarti ogni volta invece di parlare con noi? Mertens si sente conteso tra l'ubriachezza, la prudenza e un certo bisogno di confessione. Auschwitz è un lager, dice, anzi un gruppo di lager. Uno è proprio contiguo alla fabbrica, ci sono uomini e donne sporchi, stracciati, non parlano tedesco, fanno i lavori più faticosi, noi non possiamo parlare con loro. E chi ve l'ha proibito? La direzione ce l'ha proibito, la direzione. Quando siamo arrivati ci hanno detto che sono gente pericolosa, banditi, sovversivi, e tu non gli hai parlato. Chiese il padrone di casa. No, rispose Mertens versandosi un altro bicchiere. E qui interviene la giovane signora Mertens. Io ho incontrato una donna che faceva le pulizie in casa del direttore. Mi ha detto solo: Frau, Brot, signora, pane. Ma io, Mertens non doveva poi essere tanto ubriaco, perché interrompe seccamente la moglie. Smettila! E rivolto agli altri: non vorreste cambiare argomento? Non so molto del comportamento di Mertens dopo il crollo della Germania. Ha parlato un po' di più parecchi anni dopo la fine della guerra, quando non c'era più la Gestapo a fargli paura. A interrogarlo questa volta c'era uno specialista, un ex prigioniero, Hermann Langbein, che oggi è un famoso storico dei lager. A domande precise Mertens ha risposto che aveva accettato di trasferirsi ad Auschwitz per evitare che al suo posto andasse un nazista, che coi prigionieri non aveva mai parlato per timore di punizioni, ma che aveva sempre cercato di alleviare le loro condizioni di lavoro, che delle camere a gas a quel tempo non sapeva nulla perché non aveva mai chiesto niente a nessuno. Non si rendeva conto che la sua obbedienza era un aiuto concreto al regime di Hitler. Sì, oggi sì, ma non allora. Non gli era mai venuto in mente. Non ho mai cercato di incontrarmi con Mertens. provavo un ritegno complesso di cui l'avversione era solo una delle componenti. Anni fa gli ho scritto una lettera, gli dicevo che se Hitler è salito al potere, ha devastato l'Europa e ha condotto la Germania alla rovina, è perché molti buoni cittadini tedeschi si sono comportati come lui, cercando di non vedere e tacendo su quanto vedevano. Mertens non mi ha risposto ed è morto pochi anni dopo. Presto viene Natale. Fu un Natale memorabile per il mondo in guerra, memorabile anche per me, perché fu segnato da un miracolo. Ad Auschwitz le varie categorie di prigionieri, politici, criminali comuni, asociali, omosessuali, eccetera, eccetera, potevano ricevere pacchi dono da casa, ma gli ebrei no. E del resto, da chi avrebbero potuto riceverli? Dalle loro famiglie sterminate o richiuse nei ghetti superstiti, dai pochissimi sfuggiti alle razzie, nascosti nelle cantine, nei solai, atterriti e senza quattrini, e chi li conosceva i loro indirizzi? A tutti gli effetti noi eravamo morti al mondo. Eppure un pacco arrivò fino a me, mandato da mia sorella e da mia madre, nascosta in Italia attraverso una catena di amici. Per descrivere il suo effettivo valore, l'urto emotivo che scatenò in me e nel mio amico Alberto, il linguaggio ordinario si trova in difetto. Quel pacco, inatteso, improbabile, impossibile, era come un meteorite, un oggetto celeste carico di simboli, di valore immenso, di immersa forza viva. Non eravamo più soli. Un legame col mondo di fuori era stato stabilito. Il pacco conteneva cioccolato autarchico, biscotti e latte in polvere. C'erano cose deliziose da mangiare per giorni e giorni, ma portava con sé anche problemi pratici gravi da risolvere all'istante. Dove metterlo? Come conservarlo? Come sottrarlo alla cupidigia degli altri? Come investirlo? La nostra fame vecchia di un anno ci spingeva alla soluzione peggiore: mangiare tutto subito. Dovevamo resistere alla tentazione. I nostri stomaci indeboliti non avrebbero retto alla prova. Entro un'ora tutto sarebbe finito in una indigestione, se non peggio. Non avevamo nascondigli sicuri. Distribuimmo i viveri in tutte le tasche legali dei nostri abiti. Ci cucimmo tasche illegali nel dorso della giacca, in modo che anche nel caso di una perquisizione qualcosa si potesse salvare. Ma portarsi tutto quanto dietro, anche sul lavoro, anche al lavatoio, alla latrina, era scomodo, goffo. Alberto e io ne parlammo a lungo alla sera dopo il coprifuoco. L'articolo più ingombrante erano i biscotti. Ne avevamo sparsi un po' dappertutto. Io ne avevo addirittura alcuni dentro la fodera del berretto e dovevo fare attenzione per non sbriciolarli quando mi toccava strapparmelo di scatto dal capo per salutare la SS di passaggio. Erano biscotti non tanto buoni, ma di bella apparenza. Avremmo potuto dividerli in due confezioni, farne omaggio al capò e all'anziano di baracca. Secondo Alberto, era quello il migliore investimento. Avremmo acquistato prestigio e i due prominenti ci avrebbero remunerato con indulgenze di vario tipo. Il resto del pacco lo avremmo consumato noi a piccole razioni quotidiane e ragionevoli e nel massimo segreto possibile. Ma nel lager, l'affollamento, la promiscuità, il pettegolezzo, il disordine erano tali che il segreto si riduceva a poca cosa. Ci guardavano a seconda del grado di simpatia che provavano per i due italiani, ci guardavano con invidia, con aria d'intesa, con compiacimento, con desiderio aperto. Parecchi sapevano o avevano indovinato. La cosa ci rallegrava e insieme ci preoccupava. Avremmo dovuto stare in guardia. A buon conto decidemmo di comune accordo di accelerare il ritmo del consumo. Una cosa mangiata non si ruba più. Il giorno di Natale fui mandato insieme con altri a sgomberare macerie e a trasportare sacchi di prodotti chimici da un magazzino bombardato a uno sano. Tornato in campo a sera andai al lavatoio. Nelle tasche avevo ancora una buona dose di cioccolato e di latte in polvere. Perciò trovai un posto nell'angolo più lontano dalla porta d'ingresso, appesi la giacca a un chiodo, proprio dietro di me. Nessuno avrebbe potuto avvicinarsi senza che io lo vedessi. Incominciai a lavarmi e con la coda dell'occhio vidi che la giacca lentamente stava salendo. Mi voltai ed era già troppo tardi. La giacca, con tutto il suo contenuto e con il mio numero di matricola cucito sul petto, era ormai fuori dalla mia portata. Qualcuno dalla finestrella che stava sopra il chiodo aveva calato una funicella e un amo. Corsi fuori, mezzo vestito com'ero, ma non c'era più nessuno. Nessuno aveva visto niente, nessuno sapeva niente. Oltretutto ero rimasto senza giacca. Mi toccò andare dal furiere di baracca a confessare la mia colpa, perché in lager essere derubati era una colpa. Ridividemmo così il contenuto delle tasche di Alberto, che era rimasto indenne e che sfoderò le sue migliori risorse filosofiche. Più di metà del pacco l'avevamo consumato noi, non è vero? E il resto non era del tutto sprecato. Qualcun altro, affamato, stava festeggiando il Natale a spese nostre, magari benedicendoci. E comunque di una cosa si poteva essere sicuri. Era quello l'ultimo Natale di guerra e di prigionia. Qualche giorno fa in un gruppo di amici si parlava dell'influsso delle piccole cause sul corso della storia. Questa è una controversia classica e classicamente priva di soluzione definitiva e assoluta. Ci siamo trovati invece tutti d'accordo nell'osservare che le piccole cause possono avere un effetto determinante nelle storie individuali. Allo stesso modo che l'ago di uno scambio ferroviario, spostandosi di pochi centimetri, può avviare un treno con 1.000 passeggeri a Madrid anziché ad Amburgo. A questo punto ognuno dei presenti ha preteso di raccontare la piccola causa che aveva radicalmente mutato la sua esistenza, e anch'io, quando la confusione si è calmata, ho raccontato la mia. Poco più che 40 anni fa, quando ero prigioniero ad Auschwitz, lavoravo in un laboratorio chimico. Avevo fame e cercavo di rubare qualcosa di piccolo, di insolito e quindi di alto valore commerciale per scambiarlo con pane. Dopo vari tentativi riusciti o falliti, trovai un cassetto pieno di pipette. Le pipette sono tubetti di vetro graduati con precisione. Servono a trasferire quantità ben definite di liquido da un recipiente all'altro e vengono usate, oggi veramente si usano sistemi più igienici, aspirando il liquido con le labbra da un'estremità in modo che salga esattamente fino alla gradazione superiore, lasciando che scenda poi per il suo peso. Le pipette erano tante. Ne infilai una dozzina in una tasca clandestina che mi ero cucita all'interno della giacca, me la portai in lager e appena finito l'appello corsi all'infermeria. Intendevo offrirle a un infermiere polacco che conoscevo e che lavorava nel reparto infettivi. Gli spiegai che potevano servire per le analisi chimiche. Il polacco guardò la refurtiva con scarso interesse, poi mi disse che per quel giorno era troppo tardi. Pane non ne aveva più, tutto quello che poteva offrirmi era un po' di zuppa. Accettai il compenso proposto. Il polacco scomparve tra i malati del suo reparto e tornò poco dopo con una scodella piena zeppa, mezza piena di zuppa. Era mezza piena in un modo curioso, e cioè verticalmente. Faceva molto freddo, la zuppa si era rappresa e qualcuno ne aveva asportato una metà con un cucchiaio, come chi mangiasse mezza torta. Ma chi poteva aver avanzato mezza scodella di zuppa in quel regno della fame? Quasi certamente un ammalato grave. E dato il luogo anche contagioso, nelle ultime settimane nel campo si erano scatenate in forma epidemica la difterite, la scarlattina. Ma ad Auschwitz cautele di questo tipo non avevano corso. Prima veniva la fame e poi tutto il resto. Lasciare non mangiato qualcosa di mangiabile non era, quanto comunemente si dice, un peccato. Era impensabile, anzi fisicamente impossibile. Quella sera stessa io e il mio amico e alter ego Alberto ci spartimmo quella zuppa così sospetta. Alberto aveva la mia età, la mia statura, il mio carattere, il mio mestiere e dormivamo nella stessa cuccetta, ci somigliavamo perfino un poco, eravamo dunque, per così dire, intercambiabili. E chiunque avrebbe pronosticato per noi due lo stesso destino, entrambi sommersi o entrambi salvati. Ma proprio a questo punto entrò in funzione l'ago dello scambio, la piccola causa dagli effetti determinanti. Alberto aveva avuto la scarlattina da bambino ed era immune, io invece no. Mi accorsi delle conseguenze della nostra imprudenza pochi giorni dopo. Alla sveglia, mentre Alberto stava bene, a me la gola doleva intensamente, stentavo a deglutire, avevo la febbre alta, ma marcare visita al mattino non era consentito. E così andai al laboratorio, come tutti i giorni. Mi sentivo ammalato a morte, eppure proprio quel giorno venne incaricato di un'impresa insolita. Il capo mi disse che dovevo insegnare a Fräulein Dreschel un certo metodo analitico. La Dreschel era una tedescotta adolescente, sgraziata, torva. A me non aveva mai rivolto la parola, mi era antipatica. e anche sospetta, perché nei giorni precedenti l'avevo vista appartarsi col giovanissimo SS che sorvegliava quel reparto, e poi lei sola portava puntato sul camice un distintivo con la croce uncinata. Forse era una caposquadra della gioventù hitleriana? Lei era una pessima allieva perché era stupida. E io un pessimo maestro perché parlavo male il tedesco e soprattutto perché non ero motivato, anzi, ero contromotivato. Perché avrei dovuto insegnare qualcosa a quella creatura? Credo che sia stata quella l'unica occasione in cui abbia commesso deliberatamente un'ingiustizia. L'analisi che le avrei dovuto insegnare comportava l'uso di una pipetta, sì, una sorella di quelle a cui dovevo la malattia che mi correva per le vene. Mostrai alla Dreschel come la si usava, inserendola fra le mie labbra febbricitanti. Poi gliela porsi e la invitai a fare altrettanto. Feci, insomma, quanto potevo per contagiarla. Pochi giorni dopo, mentre io ero ricoverato all'infermeria, il campo fu sciolto nelle tragiche condizioni che sono state più volte descritte. Alberto fu vittima della piccola causa che ha deciso del suo destino, della scarlattina, da cui era guarito, bambino. Venne a salutarmi e poi partì nella notte, nella neve, insieme con altri 60.000 sventurati per quella marcia mortale da cui pochi tornarono vivi. Io fui salvato, nel modo più imprevedibile, dall'affare delle pipette rubate che mi avevano procurato una provvidenziale malattia proprio nel momento in cui, paradossalmente, non poter camminare era una fortuna. Infatti, per ragioni mai chiarite, ad Auschwitz i nazisti in fuga si astennero dall'eseguire gli ordini di Berlino, che erano chiari: non lasciarsi dietro nessun testimone. Se ne andarono, abbandonando noi ammalati al nostro destino. Di quanto sia accaduto alla signorina Drexel non so nulla. Forse non era colpevole, se non di qualche bacetto nazista, e perciò spero che la piccola causa da me pilotata non le abbia arrecato gran danno. A 17 anni una scarlattina guarisce presto e non lascia postumi. Sei a raschiare e pulire l'interno di una cisterna interrata. La luce del giorno ci giungeva soltanto attraverso il piccolo portello d'ingresso.

Giunsi a Torino il 19 di ottobre dopo 35 giorni di viaggio. La casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa sicura, la concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, ma un sogno ancora oggi non ha cessato di visitarmi ad intervalli ora fitti, ora radi, un sogno pieno di spavento. È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia o con amici o al lavoro o in una campagna verde, in un ambiente placido e disteso, eppure provo un'angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti, al procedere del sogno, a poco o brutalmente tutto si disfa intorno a me, le pareti, le persone, e l'angoscia si fa più intensa e più precisa. Nel sogno tutto è volto in caos. Sono solo al centro di un nulla grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed anche so di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager, e nulla è vero all'infuori del lager. Ora il sogno di pace è finito, e nel sogno esterno che prosegue gelido odo risuonare una voce ben nota, una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell'alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa. Alzarsi. Stavacci.